Le piacevoli notti. Libro secondo di Giovan Francesco Straparola. Quinta e ultima favola della dodicesima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Pierre. Isabella alla sua favola diede principio, così dicendo. Favola quinta. Sisto, sommo pontefice, con una parola solamente fece ricco un suo allievo nominato Girolomo. Sì belle e sì acute sono state le novelle che hanno recitate queste nostre sorelle, che io dubito, per la bassezza dell'ingegno mio, mancar per via. Non però voglio desistere dal bell'ordine cominciato, e avvenga che la novella che raccontare intendo sia stata descritta da messer Giovanni Boccaccio nel suo Decamerone, non però è detta nella maniera che voi udirete, perciò che vi ho giunto quello che la fa più laudevole. Sisto IV, pontefice massimo, di nazione genovese, nasciuto in Savona, città marittima, per avanti chiamato Francesco da Rovere, nella sua giovanezza a Napoli, andando alla scuola, ebbe appresso di sé un cittadino suo compatriota, detto Gerolomo d'Ariario, il quale lo serviva continuamente, e servillo non solo mentre andava alla scuola, ma ancora dopo fatto monaco e prelato. E poi che ascese alla gran dignità pontificia, quello sempre giustamente e con gran fede servendo, s'era invecchiato, ed essendo Sisto, sì com'è usanza, per la subita morte di Paolo, sommo pontefice, in luogo di lui, elevato alla suprema pontifical dignità, sovvenne ai servitori e domestici suoi, per servizi da loro ricevuti, e quelli rimunerò largamente e oltre misura, eccetto questo Gerolomo, il quale, per la sua fedel servitù e per troppo amore, fu pagato di oblivione e ingratitudine, il che penso piuttosto essere avvenuto per certa sua sciagura che per alcun'altra cagione. Onde il detto Gerolomo, di mala voglia e da gran dolore sovrapreso, desiderò di mandar licenza di partirsi e ritornare nella patria sua, e ingenocchiatosi al cospetto di sua beatitudine ottenne la licenza. E tanta fu l'ingratitudine di esso pontefice, che non solamente non gli diede danari, cavalli e famigli, ma fu costretto, che è il peggio, a render ragione di quanto aveva maneggiato, come fece quel Scipione africano, il qual puose ragione in pubblico al popolo romano delle sue ferite, veggendosi rimunerar di esilio per lo premio di suoi gran fatti. E nel vero, bene si dice che niun maggior male ha la cupidità quanto che gli è ingrata. Così adunque, partendosi da Roma, e andando verso Napoli, mai pur una parola non gli cascò dalla bocca, se non che, passando per certa acqua, che era per il viaggio, si intrattenne il cavallo per essergli venuta volontà di stalare, e stalò, ivi, aggiungendo acqua all'acqua, e ciò veggendo Gerolomo. «Ben ti veggio», disse egli, simile di mio patrone, il quale, facendo ogni cosa senza misura, mi ha lasciato venire a casa senza remunerazione alcuna e dammi dato licenza per premio della mia lunga fatica. E che cosa è più misera di colui al quale cascano e periscono e benefici e s'accostano l'ingiurie? Il famiglio che lo seguitava ripose queste parole nella memoria e giudicò che il detto Gerolomo superasse Muzio, Pompeio e Zenone di pazienza, e così andando arrivarono a Napoli. Il Famiglio, presa licenza e ritornando a Roma, narrò ogni cosa appunto per punto al pontefice, il quale, poiché ebbe considerato queste parole, fece ritornar il corriere indietro, scrivendo al detto Gerolomo che, sotto pena di scomunica, dovesse venir alla presenza sua. Le quali lettere lette, esso Gerolomo s'allegrò, e più presto che puote ne andò a Roma. E dopo il bascio del pie, il pontefice gli comandò che il giorno seguente, all'ora di consiglio, dopo il suon della tromba, subito venisse in senato. Aveva il pontefice fatto far due vasi molto belli e di una medesima grandezza, in uno di quali pose gran numero di perle, rubini, zafiri, pietre preziose e gioie di grandissima valuta. Nell'altro veramente era metallo, ed erano ambi i vasi d'un medesimo peso. E la mattina, poi che gli sacerdoti, vescovi, presidenti, oratori e prelati furono venuti in senato, sedendo il pontefice nel suo tribunale, fatti portar nel suo cospetto i due vasi predetti, fece venir a sé Gerolomo sopradetto e disse tai parole: «Carissimi ed amatissimi figliuoli, costui sopra tutti gli altri è stato fedele cerca i comandamenti miei, e talmente si è portato fin da primi anni che non si potria dir di più, e a ciò che conseguisca il premio del suo ben servire e che più presto l'abbia a dolersi della sua fortuna che della mia ingratitudine, gli darò elezione di questi due vasi, e sia l'arbitrio suo di prendere e goder quello che egli se eleggerà». Ma quello, infelice e sfortunato, pensando e ripensando or l'uno or l'altro vaso, elesse, per sua disgrazia, quello che era pieno di metallo. E, scoprendo l'altro vaso, veggendo esso Gerolomo il gran tesoro di gioie che teneva rinchiuso, come sono smeraldi e zafiri, diamanti, rubini, topazzi e altre sorti di pietre preziose, rimase tutto attonito e mezzo morto. Il pontefice, poiché lo vide star di malavoglia e tutto addolorato, lo esortò a confessarsi, dicendo ciò essere avvenuto per suoi peccati non confessi, de quali, fatta la soluzione, gli diede in penitenza che per uno anno, ogni giorno, dovesse, a certa ora determinata, venire in senato, quando si trattavano gli segreti dei re e signori, e dirgli nelle orecchi un'Ave Maria, nel qual luogo a niuno era lecito d'entrare. Comandò che alla venuta di lui subito gli fussero aperte tutte le porte, e dato libero adito di venire a lui con tanto onore quanto dir si potrebbe. Laonde esso Gerolomo, senza pur dire una parola, con gran onorificenza o piuttosto con gran prosunzione, andava al pontefice e, ascendendo il seggio pontificale, faceva la penitenza a sé ingiunta, il che fatto tornava fuori. I circostanti molto si maravigliavano di questa cosa, e gli oratori scrivevano a suo principi che Gerolamo era il pontefice e trattavasi ogni cosa in senato a volontà sua, per il che raccoglieva di gran denari, e da principi cristiani vi erano mandati tanti e tanti doni che in poco tempo divenne molto ricco, di modo che appena si trovava in Italia un più ricco di lui. E così, passato l'anno della penitenza, rimase contento e pieno di molti doni e ricchezze. E creatolo gentiluomo di Napoli, di Forlì e di altre molte città, essendo prima di bassa condizione, divenne chiaro illustre, a guisa di Tullio Ostilio e di David, i quali consumarono la puerizia sua in pascere le pecore. E nell'età più forte l'uno resse raddoppiò l'imperio romano, l'altro trionfò del regno degli ebrei. Fine della storia. Giunta che fu al desiato termine la favola da Isabella raccontata, levossi in piede il mulino e disse: «Non accadeva, signora Isabella, nel principio della vostra favola far iscusazione alcuna, perciò che ella ha portato il vanto di tutte quelle che sono state citate in questa sera». A cui rispose Isabella: «Signor Antonio, se io credessi voi dir da dovero, mi allegrerei sommamente, perciò che sarei laudata da quello che è comendato da tutti. Ma perché voi dite burlando, io me ne starò nella ignoranza mia, lasciando il vanto a queste mie sorelle, che sono più savie di me». Ma ciò che le parole più oltre non procedessino, la signora le fe cenno che con l'enimma seguisse. Ed ella, allegra del dato levanto, così disse: «Tempo già fu, signor, ch'ora non è, né quel che ito ritrattarsi può. Allor, quand'io non l'ebbi, te ne die, ed or che l'aggio, più non te ne do. Duro ti fia assai pensar fra te, chi son, chi fui. Già l'ebbi, ed or non l'ho. Ma per la strada dimandando va che quella te ne dia ch'ora non l'ha». Qui pose fine l'ingegnosa Isabella al suo enirama, e perché era di gran misterio pieno, diversamente l'interpretaro. Ma non vi fu niuno che pienamente l'intendesse. Il che veggendo, Isabella, con lieto e chiaro viso sorridendo, disse: «Con licenza vostra, signori, isponeremo l'enimma recitato da noi, il quale non dimostra altro, salvo che un'innamorata donna non maritata, che era sottoposta al suo amante, ma poi che si maritò, non più conobbe l'amante, onde persuadevagli che andando per strada richiedesse l'amore da quelle che non avevano marito». Piacque molto ciascaduno la dotta esposizione del sottile enimma, e tutti universalmente la comendaro. Già il crestuto gallo denunziava al chiaro giorno, quando i magnifici signori presero licenza dalla signora, la quale, con faccia allegra, li pregò che nella seguente sera al bel ridotto tornassero, e tutti farlo graziosamente risposero. Fine della quinta e ultima favola della dodicesima notte. Fine della dodicesima notte. Registrazione di Pierre.